Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La mia mamma mi aveva sorriso, mi aveva indicato l'armadio dicendo di andare a vedere. Appesa alla chiave, con un nastro rosso, c'era una pergamena bruciacchiata e un messaggio breve ma chiaro. Mi sarebbe arrivato un fratellino o una sorellina, o forse addirittura tutte e due. Mi chiamo Isabella, vivo a Lesa, ho 16 anni e frequento il liceo classico. E come un primo di novembre qualunque, siamo in diretta anche oggi, radio24.it, questo è Voi Siete Qui, ogni giorno raccontiamo una storia, e oggi, anche se si dice allegro come il 2 di novembre, non c'entra perché è il primo di novembre, quindi... Però non so se si dice dalle tue parti, Paoli, non si dice... Neanche in Umbria? Al nord si dice, ragazzi, si dice allegro come un 2 di novembre, perlomeno c'è una mia amica Laura che lo dice sempre, allegro, simpatico come un 2 di novembre, ma chi se ne frega, perché è domani, quindi oggi è il primo, continuiamo a raccontare storie, oggi raccontiamo la storia che, devo dire, per come è raccontata, rispetto all'età di chi la racconta, sembra veramente sorprendente. Sentivo ieri mattina su un'altra radio, forse non dovrei dirlo, sì, su Radio 3, insomma, ogni tanto mi capita per sbaglio, cercando la frequenza di Radio 24, di capitare su Radio 3, e il buon Edoardo Camurri raccontava di come, leggendo un articolo su una rivista, di come ci siano 3 ragazzi su 100 in grado di leggere un testo, un romanzo, in grado, non di leggere, di interpretare, di capire un romanzo. 3 ragazzi su 100 in Italia riescono a capire che cosa intende un romanzo. È una ricerca. E gli altri, è una bella domanda, Tiziano, credo che pensino ad altro mentre lo leggono. Ed è ancora più sorprendente sentendo la storia di Isabella oggi, che ha 16 anni, racconta di un momento che le è successo 10 anni prima, quando sostanzialmente non è più figlia unica. 349-238-6666, oppure i profili Facebook e Twitter, il mio personale è Matteo Caccia, quello del programma è Voi Siete Qui R24, mentre su Facebook è Voi Siete Qui Radio24. Oggi parliamo di questo, parliamo di cosa non saremmo stati se non avessimo avuto un fratello o una sorella. 349-238-6666. Sono già arrivati alcuni messaggi su Facebook, ad esempio di Carlo, che dice: se non avessi avuto mia sorella non sarei diventato un buon marito, visto che tra le sue amiche ho conosciuto Yara e me la sono sposata per la vita. Ecco, questa è una questione, quella delle amiche della sorella o degli amici del fratello, o anche degli amici della sorella o delle amiche del fratello. Serena: se non avessi avuto mio fratello mi sarei persa il Giappone e gran parte degli Stati Uniti, dove sono andato a trovarlo tutte le volte che lui si spostava per lavoro. Antonello: se non avessi avuto mio fratello sarei un picciu. Questo è il messaggio migliore che è arrivato al momento. 349-238-6666. Prima di iniziare il racconto di Isabella, vi ricordo, come ho già fatto ieri, visto che abbiamo cominciato da poco a farlo, che stiamo raccogliendo racconti di viaggio. Ci sarà un periodo che durerà 4 settimane, un mese, da metà novembre a metà dicembre, in cui una puntata a settimana la dedicheremo a racconti di viaggio. Viaggi che in qualche modo vi hanno modificato, viaggi che vi hanno reso migliori, ma anche magari che vi hanno reso peggiori, viaggi che vi hanno fatto scoprire delle cose che non conoscevate, persone che non conoscevate, magari anche parte di voi che non conoscevate. Voi siete qui, @radio24.it, è sempre lo stesso l'indirizzo a cui mandarlo, possibilmente in una pagina, possibilmente un viaggio esotico, cioè se siete andati da Milano a Reggio Emilia va bene, va bene, e teniamoci quel ricordo, però possibilmente raccontateci di luoghi lontani se siete riusciti ad andarci. Voi siete qui, @radio24.it. Questa qui è la storia di Isabella. È l'una di notte del 15 giugno del 2003, 10 anni fa. Uno scossone interrompe il mio sonno. Dobbiamo andare in ospedale, stanno per nascere i tuoi fratellini. Guardo mio papà come se lo vedessi per la prima volta, ma la sua espressione preoccupata mi fa capire che è tutto vero. Non nasceranno lunedì, mentre io sono a casa della nonna come era stato programmato. Ho solo 6 anni e mezzo, ma conosco l'imprevedibile. Mi vesto con le prime cose che trovo, un vestito senza maniche e un paio di sandali, forse non troppo adatte allora, ma nessuno ci fa caso. Nel buio l'auto fila su strade deserte. Ma non bisogna dimenticare che è sabato notte. Da una discoteca esce una fila di macchine che blocca il passaggio. Non si riesce ad avanzare. L'unico modo è esporre qualcosa di bianco. tutto quello che riusciamo a trovare è un foglio di carta di chissà cosa che sbatterà fuori dal finestrino fino all'ospedale di Novara. La sala d'aspetto è squallida e le scale, buie e chiuse da una sbarra per i lavori in corso, mi fanno un po' paura. Però c'è papà. Da quando la porta di fianco a me ha inghiottito la mamma e un paio di infermiere che ho sentito dire «bisognerà richiamare il chirurgo», è appena andato via. Ecco, da quel momento papà non ha parlato molto. È nervoso. Continua a spostare lo sguardo dalla porta a me al vuoto di fronte a sé. Io sono tranquilla. Non sono pienamente cosciente di quello che sta accadendo. Forse sto ancora dormendo e questo è solo un sogno. Guardo il ventilatore a pale che gira silenzioso sulle nostre teste e penso che sia veramente utile. Io lo vorrei anche a casa, nella mia stanza. Io ho dei flash di quella notte. Il viaggio non saprei dire quanto sia durato. Per me può essere durato un secondo quanto un'ora. Non ho proprio la più pallida idea. E invece mia mamma non mi ricordo assolutamente se mi ha detto qualcosa prima di entrare. Probabilmente me l'ha anche detto, ma io non me lo ricordo. Mi ricordo più che altro mio papà che mi diceva che dovevamo aspettare lì e basta. E poi mi ritorna in mente la mattina di Natale dell'anno prima. Appena alzata avevo aperto la porta che divideva la mia stanza da quella dei miei genitori per svegliare anche loro. La mamma mi aveva sorriso, ancora mezza addormentata, e mi aveva indicato l'armadio, dicendo di andare a vedere. Appesa alla chiave, con un nastro rosso, c'era una pergamena bruciacchiata. Un messaggio breve ma chiaro. Mi sarebbe arrivato un fratellino o una sorellina, o forse addirittura tutte e due. Le mie tante preghierine recitate con fiducia durante la messa della domenica avevano avuto effetto. Un'infermiera chiama papà. Sono nati. Rimango nella sala vuota e non ne posso più di aspettare, almeno avessi un libro. Sento dei passi e delle voci. Nella stanza entrano un uomo e una donna che si accorgono della mia presenza solo quando si sono seduti. Sono agitati perché vogliono vedere il loro nipotino, ma non c'è nessuno a cui chiedere e non sanno dove andare. Mi tengono compagnia fino a quando non vengono chiamati dietro a una porta. Sì, il nome della femmina l'avevamo scelto da tempo, Margherita. Invece Matteo è stato deciso proprio in ultimo e praticamente Matteo l'ho scelto io. È stato il nome che ho scelto io. La stanza ritorna silenziosa e io sono di nuovo da sola quando arriva un'infermiera che spinge un carrello. Appena mi vede mi chiede che cosa faccio lì da sola. È simpatica, allegra e gentile. La mia mamma è lì dentro perché sono nati i miei fratellini e papà è entrato a vederli. Aspetta qui, mi dice. Passa del tempo che a me sembra infinito. Quando lo vedo ricomparire ha in mano un grembiulone e due strani sacchetti di plastica azzurra. Vieni, il chirurgo ha detto che puoi entrare. Mi guarda e decide di farmi mettere solo quegli strani sacchetti che scopro essere dei copriscarpe. Quando sono pronta mi porta in una stanza che a me appare piccola, piena di gente indaffarata. Al di là di una porta vedo la mamma sdraiata che mi saluta. Poi noto papà che sta guardando due bambini piccolissimi appoggiati su un lettino. È commosso. Guarda, sono i tuoi fratellini, mi dice. Sono lì, sono nati. Non sono più figlia unica. I hear a child crying, folks, it's heading home. That rings from the jaws and the forest knows, but it won't share the secret when the king takes a hide, leaving mortal minds all jaded. Strength now and nobody knows. Sono il fratello più piccolo, il secondogenito. Non ho vissuto nemmeno un giorno da figlio unico. Io ho sempre diviso la casa, la nonna, le vacanze da piccoli con mia sorella. Io non ho mai provato cosa voglia dire essere figlio unico. Non me lo sono mai nemmeno chiesto, a dire la verità. Essere figli unici è un privilegio che spetta solo al primogenito. Tutti gli altri si devono adeguare alla sua presenza. Cioè, anche se non c'ero, mi immagino i miei genitori da bambini, poi da giovani o quando si sono sposati. Mi immagino anche la casa dove abitavano prima che arrivassi. Io non c'ero, ma con uno sforzo di immaginazione riesco a vedere dei momenti della loro vita prima di me. Eppure non riesco ad immaginare quella di mia sorella prima di me. Se lei per me c'è sempre stata, anche io per lei ci sono sempre stato. Non c'è niente da immaginare. Sono ricordi comuni, i nostri. Ma lei c'era prima di me e ha un passato che io non ho. Un passato in cui è stata figlia unica. È proprio difficile immaginarsi figli unici se non lo si è mai stati. Io, se fossi figlio unico, sentirei più spesso i miei genitori e forse sarei più condizionato da loro. Se fossi figlio unico, non avrei nessuno di vicino che la vede così tanto distante da come la vedo io. Se fossi figlio unico, avrei avuto durante un'estate all'Isola d'Elba una storiella con quell'amica di mia sorella che mi piaceva tanto, o almeno ci avrei provato. Se fossi figlio unico, mio padre si sarebbe comprato il maggiolino cabrio. E invece è finita 2-2. Io e lui a favore, mia mamma e mia sorella contrarie. E non se n'è fatto niente. Se fossi figlio unico, non sarei mai andato a un concerto dei Pooh, a una vacanza studio in Inghilterra e in Colonia da bambino. Se fossi figlio unico, nessuno mi avrebbe convinto ad uscire vestito da donna a 7 anni, un pomeriggio d'estate in montagna. Se fossi figlio unico, quella volta al Ticino a 5 anni, quella volta in cui avevo bucato la mia bicicletta, me ne sarei tornato a casa da solo. Se fossi figlio unico, quando a 20 anni non hai mai una lira in tasca, ne avrei avuta ancora meno. Se fossi figlio unico, a parte quello dei Pooh, non avrei visto nemmeno il concerto di Neil Young. Se fossi figlio unico, non saprei chi chiamare quando devo prendere una decisione. Se fossi figlio unico, chi se le sente tutte le puntate? Se fossi figlio unico, non saprei cos'è un barbecue americano, ad esempio, un pavimento in resina e i sanitari sospesi. Se fossi figlio unico, non avrei minacciato nessuno di buttarmi dalla finestra se non avesse giocato ai soldatini con me da piccolo. E avrei diviso la macchina solo con la mamma a 18 anni. Per un figlio unico forse è impossibile immaginarsi con un fratello, ma immaginare di essere figli unici se non lo si è mai stati è quasi impossibile. Mentre Armstrong e Aldrin allunavano nel luglio del 1969, Collins, il terzo della spedizione, per non spegnere i motori del modulo di comando, ha fatto un giro sul lato nascosto della Luna. In quei 47 minuti, separato dall'umanità, dalla massa della Luna e con l'infinito di fronte a sé, lui dice piombò in una solitudine che un impiegato della NASA definì la più profonda che un essere umano abbia mai provato dai tempi di Adamo. Io non sono mai stato su una navicella spaziale che gira intorno alla Luna, così come non sono mai stato figlio unico. Per quanto mi sforzi, non riesco a cogliere il senso profondo dell'esperienza che ha vissuto Collins sulla Luna al buio. Non riesco nemmeno a immaginarla. Ci sono esperienze che non le puoi sapere, che non basta la curiosità, la sensibilità, la cultura a riempire quel vuoto. Essere figlio unico, per chi non l'è mai stato, è una di queste. I wanted to change the world, but I could not even change my underwear. And when the shit got really, really out of hand, I had it all the way up to my hairline, which keeps receding like my self-confidence. as if I ever had any of that stuff anyway. I hope I didn't destroy your celebration, or your bat mitzvah birthday party, or your Christmas. You put me in this cage and threw away the key. It was this us and them shit that did me in. You tell me that my life is based upon a lie. I casually mention that I pissed in your coffee. I hope you know that all I want from you is sex. To be with someone who looks smashing in athletic wear. And if your haircut isn't right, you'll be dismissed. You get your walking papers and you can leave now. Sta leggendo Isabella nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24 anche oggi, primo di novembre, alla pagina di Voi Siete Qui. È coperta, quindi fa un po' freddo. È in riva all'acqua, credo. Direi essere lago, da come tranquilla l'acqua. C'è un po' d'erba, c'è il lago, c'è un sole autunnale. Lei è su una panchina e tiene in mano non un libro, ma un tomo da tipo 800 pagine. Pronto, Isabella? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Io benone, alla grande. Dove sei in questo primo di novembre? Sei in vacanza oggi, giusto? C'è sì, il ponte. Sì, sono a Genova. Sei al mare? Sì. A fare il bagno? No, beh, è un po' tardi, sono per il Festival della Scienza. Aspetta, facciamo un passo indietro, Isabella. Tu quanti anni hai, me lo ricordi? 16. E una ragazza di belle speranze come te, che ha 16 anni, diciamo è obbligata dai genitori ad andare al Festival della Scienza di Genova? No, è il contrario, sono io che obbligo i miei ad andare. Quali appuntamenti imperdibili ci sono al Festival della Scienza, Isabella? Ma francamente non lo so, nel senso che guardo il programma e in base a quello che mi interessa. Vai a vedere, insomma, di volta in volta, sì. Tu te li sei portati a Genova, i genitori, adesso lì, insomma, vi barcamenate per cercare di capire se c'è un Oddy Freddy che dice una roba interessante, oppure comunque sono scienziato americano che parla della teoria dei quanti. Cosa farai da grande, Isabella? Non lo so, cioè ho qualche idea, ma sono solo sogni per ora. Cosa studi? Il liceo classico faccio. E sei alla seconda liceo? Sì, che è il quarto anno. Che è il quarto anno, ti ringrazio per aver specificato. Effettivamente anch'io, fossi stata in te, avrei detto questo non lo sa, che la seconda liceo classico è il quarto anno. Che libro stai leggendo? Che tomo stai leggendo nella foto che ci hai mandato? Quella lì è La coscienza di Zeno. Ah, benissimo. Cioè, che è un libro che tu leggi tranquillamente in un pomeriggio autunnale, insomma. Beh, adesso un pomeriggio no, ci ho messo un po' di più, però sì. Che libro stai leggendo adesso? Adesso sto leggendo C'era una volta la mafia, che è un libro sulla mafia americana. Benissimo, noi tra l'altro lunedì avremo una puntata che parla proprio di quella, quindi sembra fatta apposta. Sembra fatta apposta, e invece no, come al solito facciamo le cose a caso. Isabella, veniamo invece a noi. Questo racconto tu l'hai scritto più o meno quanto tempo fa? L'ho scritto giugno scorso, poco prima del compleanno, del decimo compleanno dei fratelli. Quindi erano esattamente 10 anni da quando tu, 6enne, ti svegli la notte e tuo babbo ti dice andiamo che stanno per nascere, giusto? Sì, esatto. Come stanno loro? Che tipi sono adesso? No, loro stanno bene, sono abbastanza vivaci, però no, sono bravi. Senti, è difficile essere sorella di due fratelli gemelli tra loro? Ma a volte sì, perché comunque fanno comunella, però è anche bellissimo, perché comunque è il maschio e la femmina insieme, che è quanto di meglio io avessi potuto desiderare. Ma comunque. Tu non vedevi l'ora di avere dei fratelli, sostanzialmente, Isabella? Sì, perché comunque io andavo, cioè ho fatto la primina, quindi andavo già a scuola. E la primina, la primina cos'è? Che cominci un anno prima. Esatto. E vedevo la maggior parte dei miei compagni che aveva qualche fratello e io ero l'unica, ancora figlia unica. Certo. E quindi volevo questo fratellino che non arrivava. Isabella, tu scusami, vado salto di palo in frasca, che è un po' la mia specialità. Tu ascolti Radio 24 da tanto tempo? Lo ascolti quotidianamente? Ascolti solo noi o ascolti ascolto tu? Ascolto solo il secondo, cioè questa è la seconda stagione che sento. E come sei arrivata a conoscere Voi Siete Qui? Facendo zapping radiofonico. Cioè sei passata da 101... a Radio 24? Sì, passavo le frequenze e ho trovato questa, c'era questo programma che mi sembrava bello e ho cominciato a sentirlo e da allora non ho più smesso. Segnatevi questo nome, Isabella, perché a 26 anni Isabella sarà presidente del Consiglio. Diciamo, se fossimo un paese... No, in politica no. Però dai, dammi un paio di idee su cosa vuoi fare da grande a questo punto, perché voglio saperlo, sono molto curioso. Ma io sarei più improntata sulle lettere classiche. Ok. E da lì... Boh, giornalismo, insegnamento, chi lo fa? Giornalismo anche hai detto? Sì. Tipo? Che domanda è giornalismo tipo? Che domanda è? Ma, nel senso, però, analisi politica, inviata, esteri? Ma non lo so. Che cosa fai in una tua giornata tipo, Isabella? Vai a scuola la mattina e vabbè, quello lo sappiamo. Vado a scuola la mattina, okay. Arrivo a casa e mi metto a studiare. E poi vado a letto. Addirittura? No, vabbè. Ce l'hai un fidanzato, Isabella? No. Non si può dire? No, non ce l'ho proprio. L'hai lasciato? Non ce l'ho. Ma ce l'hai avuto però? Sì, vabbè, ma da piccola. sei troppo avanti. Guarda, occhio, perché a 30 anni a te arriva la crisi dei 50, Isabella, così, No, dai, speriamo di no. Senti, invece i tuoi genitori li hai obbligati ad ascoltare Radio 24 in qualche modo? Oppure loro sono allo sbando e ascoltano come al solito Radio DJ? Loro normalmente alle 4 lavorano. No, certo, non... quello lo immagino. Che lavoro fanno i tuoi genitori? Mia mamma è una pediatra e mio papà è un agronomo. È un agronomo. Quindi tu sei a casa da sola con i fratelli il pomeriggio, no? No, c'è mia nonna. C'è la nonna. Ok, alla quale ogni tanto leggi dei pezzi della coscienza di Zeno, ad esempio. No, no. Isabella, senti, noi faremo sicuramente un live alla fine di questa stagione, come sempre. Mi raccomando, sici quest'anno. Segnatelo già sul calendario, giugno 2014. Va bene. D'accordo? Io ti auguro un buon primo di novembre, goditi Genova, e eventualmente poi scrivici su Facebook cosa hai detto di interessante o di freddi a sto Festival della Scienza. Facebook. Non hai Facebook. No. Va bene, non ho più parole, Isabella. Non hai Facebook, non vuoi entrare in politica, non c'è un fidanzato, sei la donna di riferimento per questo paese. Io ti ringrazio, in bocca al lupo alla tua famiglia. Crepi. Ciao Isabella, grazie. Ciao Matteo. Ciao. E poi dicono che gli uomini sono spaventati dalle donne. Io sfido chiunque a stare davanti a Isabella e a tenere botta con una che ha 16 anni, 16, 17, non ricordo, 16 anni, obbliga i genitori ad andare a Genova al Festival della Scienza. Faccio una rettifica, perché prima avevo detto che avevo sentito che 3 ragazzi su 100 non capiscono un romanzo. Non è così, era una boiata. 3 ragazzi su 100 non capiscono Dante, che... non è effettivamente di prima lettura, però non è nemmeno 3 su 100 non lo capiscono. No, al contrario, 3 su 100 lo capiscono, perdonatemi, sì, hai ragione. 3 ragazzi su 100 capiscono la lettura della Divina Commedia. Tutti gli altri, vale prima, sui tablet o sugli smartphone, più o meno. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, primo di novembre 2013, che sono Tiziano Bonini, Margherita Hina, Paolino Corleoni e anche Mauro Pescio. Grazie soprattutto a Isabella, che è già un totem di riferimento per questo programma. La sera di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso sulla mappa. Mi chiamo Andrea Traina, vengo da Fano. La storia di lunedì è la mia e parla di storie di mala razza.